lunga e le nuove in ciel, oh bell'alma innamorato, bell'alma innamorato, recon giunga le nuove in ciel, oh bell'alma innamorato.